A te, insomma, così questa mattina un po' il compito di raccontarci che succederà oggi, in questo ormai 31esimo giorno dell'omicidio di Valerio. Sono 31 anni, pensa. 31 anni che i compagni verranno qui, come sono sempre venuti, perché commemorare Valerio è una cosa bellissima e io sono molto grata a tutti i compagni che lo ricordano. Li aspetto, già ne ho visti qualcuno stamani, perché sono venuti, è venuto da parte del sindaco qualcuno a portare la corona da loro e c'erano già dei compagni. E oggi ci sarà una bella manifestazione sotto casa, poi ci sarà un corteo. A finire in palestra Valerio Verbano c'è una mostra fotografica di tutti i manifesti dal 1980 ad oggi e in più una rappresentazione teatrale. Un'altra bella giornata in memoria di Valerio. Sì, infatti, ricordiamo insomma che ormai da 31 anni ogni 22 febbraio c'è questo appuntamento sotto casa vostra, via Monte Bianco, di Porta un Fiore per Valerio. Valerio, sì. E niente, Carla, noi insomma volevamo salutarti come tutti gli anni dalla radio, un abbraccio e sicuramente insomma ci vedremo anche questo pomeriggio. Grazie, vi aspetto. Un bacio. Un bacio e grazie infinite. Ciao Carla, Ciao. ciao. Questo è un veloce saluto di Carla che facciamo ogni anno, di Carla e la mamma di Valerio, ricordando insomma gli appuntamenti che ci saranno questo pomeriggio a partire dalle ore 16, come tutti gli anni. Porta un fiore a Valerio, sotto la lapide di Valerio, sotto la casa di Valerio, dove appunto fu ucciso ormai ben 31 anni fa, a via Monte Bianco. Poi lo ricordiamo verso le 17, un corteo cittadino che partirà proprio da via Monte Bianco per poi arrivare alla palestra popolare dedicata a Valerio Verbano, dove a partire dalle 20 ci sarà questo appuntamento con Militantà e Attrice Contro. Quindi andremo un mix tra rap e teatro. Ricordiamo che anche nel corso del pomeriggio di Radio Onda Rossa parleremo ancora di teatro e Valerio Verbano.